di vita col mantinente, godi questo sole tutto transiente, ma l'acciaio dell'umano con fredda ragione anche per maestoso regno mi muove a compassione.